24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. 1, 2, 3, tutti Silvio. 1, 2, 3. Silvio, Silvio, Silvio, Silvio, Silvio, Silvio. Vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni. Era Iva Zanicchi, cari ascoltatori, 6 e 32 minuti, e devo dire che Iva Zanicchi che urla Silvio, vieni, vieni, vieni, vieni, era, nel senso, era fuori da Villa San Martino, nel senso, esci, esci, fatti vedere, vieni, vieni, vieni, vieni. Questa era Iva Zanicchi, la vogliamo riproporre, perché... 1, 2, 3... Dopo facciamo anche Forza Italia, no, perché le parole la riproponiamo. Iva Zanicchi, era questo, è l'altro. Il vieni, vieni, vieni. Vabbè, insomma, pazienza, dai. E allora, Silvio Berlusconi poi è uscito, ha detto un grazie, ma è un Silvio Berlusconi muto. Gli avvocati gli hanno consigliato di non parlare. Va bene, questa è 24 mattino, siamo qui con Alessandro Longoni in redazione, c'è Peter Bescapè, il nostro alpino, in regia, siamo tutti pronti, insomma, per questa nuova puntata, e che dire? Sì, non ce l'ho contro la fila 3, Milan, sei proprio un coglione, ma è possibile che sei un pirla così, lavori in radio, e il mondo va così, vabbè, pazienza. Pazienza, che dobbiamo fare? Saluto Paolo Del Debbio, buongiorno. Buongiorno. Ma il clima è questo, ci vogliono tutti bene qua. Qui sì. Sì. No, qui, anche qui. Grandi apprezzamenti, come sempre. Saluto anche Mario Adinolfi. Marione, dove sei? Sempre in America. Ma qui c'ho... Sempre gli Stati Uniti d'America a salutarvi caramente da lontano. Ma qui nella notte americana. Ma qui non lo so, c'è un paese da salvare e Mario Adinolfi se ne sta. È perso il paese, è inutile che vuoi salvare. Ah, tu già te ne sei, hai già trovato la tua via. Alla Frank Sinatra, hai sentito Iva Zanicchi? Silvio, vieni, vieni, ecco. vabbè, fermiamoci. Meglio qua. L'America, vabbè. Milan, meglio l'America. Allora, possiamo aprire il nostro Parlamento, può aprire, c'è sempre la nostra Nicole Minetti, così poi c'è l'altra, vabbè, che non gli piace. Forza gente, a correre dal Parlamento. Abbiamo Barman. Oggi non è oggi il caffè della Minetti, va bene, non disturba nessuno, meno male. Allora Paolo Del Debbio torna e sono risuonate le note di Forza Italia ieri al raduno dei fedelissimi di 400. Qui abbiamo uno dei costruttori, dei fondatori, degli ideatori di Forza Italia. Allora torna Forza Italia, Del Debbio? Non lo so, perché io dopo faccio un altro mestiere e ora non so che fanno, però si vedrà. Mi sembra che sia tanto ormai che gira in aria la voglia di che torni Forza Italia, perché il PDL è stato una cosa che ha funzionato fino a un certo punto, insomma, no? Poi alcuni se ne sono andati, hanno fatto Fratelli d'Italia, altri non ci si sono trovati, insomma, è stata un po' una roba così. E allora poi il grande addio di Fini, insomma, tutto un po' un casino. E tutto quindi un po' un è tanto casino. Tempo che Berlusconi, credo che lo dice ogni tanto, no? Lo sanno tutti, lo sappiamo tutti, perché ogni tanto gli scappa, forse era meglio se rimanevamo dove eravamo, forse sarebbe meglio se tornassimo lì dove eravamo, e questa qui secondo me forse è la volta buona. Cioè, è la volta buona, torna forse. Sì, secondo me sì. Occhio e croce, non è che... Mario Adinolfi, lì che dicono? Tutti ovviamente interessati. Ma non si preoccupano, no. Insomma, c'hanno questi... Direi di no, che non hanno altri problemi. Complicate da gestire, per cui qui tra Snowden, l'Europa incavolata, Obama, africano, insomma c'è un po' di tutto. Insomma, c'è un po' di tutto. I temi sono altri e di Forza Italia non si parla, però comunque insomma è interessante che oggi insomma, avviene la partita sulla Santanchè, che secondo me è la grande partita di queste giornate. Diventerà vicepresidente della Camera, questo c'è chi ha lanciato, come Civati ha lanciato su Twitter, Santanchè no. Non ci arriva comunque, non ce la fa, perché non per peraltro che verrà affossata dai voti PDL e dalle schede bianche PD, ovviamente. Mamma mia, i numeri non credo che ci siano, ma anche perché ha problemi interni lei. Certo è, come dire, la prova provata di come la nostra politica stia perdendo sempre più i confini dell'ipocrisia. No, no, ma anche del... Ma, io oggi non so se voi... Vabbè, Maria Di Nolfi adesso è sera, è notte quasi, quindi chi se ne frega. Io del Debbio questa mattina, quando ho visto che c'erano il dibattito secondo giorno sulla Santanchè, oppure una pagina del Corriere della Sera su Scelta Civica che fa un passo indietro con intervista annessa di mezza pagina alla sottosegretario Borletti Buitoni, ho detto: ragazzi, a me mancano 18 albe alle 5 e poi vado in ferie, perché ma la gente che frega di tutto questo, che frega gli italiani di tutto, lo so, questo, però purtroppo guarda, Milan, la cosa è molto... Io ad esempio mi sto occupando ancora tutte le sere della questione della casta, no? Sì. E perché c'è ancora, perché è ancora pesante, perché non fanno, poi ho visto queste interviste anche di Fiano del PD che dice che in sostanza risparmieranno solo 10 milioni con la legge sul finanziamento pubblico dei partiti e non 90 come dicevano, e poi ora è tornata il tema delle province, cioè è una cosa, io sono contento anch'io di prendermi un po' di sosta. Sì, sì. Tanto non cambia niente, tanto non cambia. Ritorno sulla medesima storia, cioè non è veramente angosciante. Tanto quando quando torni del Debbio le province sono sempre lì. Ma che poi noi vogliamo bene alle province, eh? Io mi sveglio, no, tutti i giorni io dico i miei pensieri che le province vengano preservate, vado a letto tranquillo, sereno, mi sveglio e tutto a posto. Oggi la Corte Costituzionale decide qualcosa sulle province, non ho capito neanche bene cosa, ma decideranno che va bene così, che va bene così, che dobbiamo tenere tutto così. No, ad Inolfi anche di questo, ma è intercettata questa nostra telefonata ad Inolfi? Perché non lo so. Certo, ovviamente, ovvio. Intercettata e tradotta in real time. ma da chi? Ma da chi? Io sono stato veramente segnalato come senior public figure qui in America. Adesso sono francamente preoccupato perché ho visto questa sigla SPF. Ma che vuol dire? Stiamo parlando con un senior public figure. Mi hanno spiegato che quindi siamo tutti controllati alla vecchia maniera, KGB. Esatto. Bene la lezione. No, del Debbio, noi pensiamo di parlare a una persona, cioè invece stiamo parlando con un senior public figure. Che veramente controllano tutto, però questa è una cosa che è abbastanza interessante. Adinolfi, di qualcosa. Il dato che mi preoccupa è come l'Italia stia andando verso il tracollo dal punto di vista economico nel silenzio generale, perché nel gioco Santanchè, appunto Orfini, Civati, nel frattempo io non so se se ne stanno accorgendo, ma i dati complessivi di economia generale sono estremamente preoccupanti. Nell'ultimo mese la borsa italiana ha perso l'11% in un mese, nessuno dice una parola. Ma non solo, titolo del Sole 24 Ore di oggi: disoccupati al 12,2%, è record dal 77, cioè vi rendete conto? Questi sono numeri che sono tutti estremamente impressionanti, e con la politica che sostanzialmente è totalmente paralizzata. Io sono davvero impressionato dal nulla che è stato fatto, perché nulla che verrà fatto. Ma d'altronde, se la discussione è: sarà o no la Santanchè vicepresidente della Camera, chi se ne frega? Cioè, ma non per la Santanchè. È ancora peggio, non è sarà o no, ma i vari giochini di chi dice: io la Santanchè non la voto, per poter cominciare a prefigurare degli equilibri futuri, di rottura dello schema di larghe intese, insomma sono tutti giochini tattici. Sì. Giovedì sostanza non cambia nulla, non si concentra nessuno. Questa sono è la cosa grandi che mi preoccupa moltissimo guardando grandi pippe. La tattica, ma diciamo le cose come stanno: la tattica ha una dignità inferiore alla strategia, come è noto, ma comunque un po' la mantiene. Poi c'è la pippa, e la pippa è un po' meno, insomma, no, della tattica, molto meno. Ecco, lì siamo a quel livello. Siamo alla non pippa. È che Sì, perché voglio dire, se una esponente importante, oggettivamente importante del PDL, no? Come è Daniela Santanchè, lascia perdere come uno la pensa su di lei. Io ho un giudizio sostanzialmente positivo, quindi no. Ma comunque sia, metti che anche io avessi un giudizio negativo, d'accordo? È oggettivamente un esponente importante del PDL, d'accordo? Bene. Sì. Sì, e sono mesi che si va avanti con questa manfrina della vicepresidenza, però con molta probabilità non verrà eletta per questioni interne al PDL, d'accordo? In un momento in cui il PDL è alleato col PD, ai tempi buoni una roba del genere metteva in crisi il partito. Qui sono settimane, come diciamo, ma scusa, a un'altra dirigente per una fronda interna non è neanche chiara contro il parere del presidente del partito Berlusconi, e questa è di Alfano, che però non so come la pensa, su questo punto non viene detto. Sì, ma cioè, questa è la politica. Detto questo, cioè, la gente veramente pensa. Ma certo che non gliene frega nulla, ma così come non gliene frega, sempre meno, diciamolo pure, anche di tutte le esternazioni di Renzi. Ah, beh, sì, anche la questione di Renzi, le regole, le non regole, il premier diventa segretario. Cioè, ieri quelli della Zanzara ogni tanto mi hanno chiesto della redazione, fa: senti Alessandro, spiegami un po' che succede, ma Renzi, le primarie, ho detto no, non so nulla, le primarie non si vota, cioè non si sa ancora quando e se si vota, fanno le primarie per i... ma non si capisce niente, quello che si capisce è che c'è crisi, disoccupazione, questo sì. Ci scrive un messaggio ad Inolfi, tranquillizzante, un ascoltatore, dice: no, quando tornerete dalle vacanze qualcosa succede, sarà la rivolta, eccolo lì, l'autunno caldo, l'autunno caldo. Non succede mai, l'Italia è un meraviglioso paese senza rivoltosi. Senza rivoltosi, a parole tutti. L'Italia che sopporta tranquillamente tutto e che sostanzialmente apprezza questa canzoncina perenne all'orecchio a Berti finché la barca va, lasciala andare. Questo è il motto nazionale che dovremmo stampare sulla bandiera. Finché la barca va. Pensa che io lo utilizzavo quando pensavo che facessero barca premier. Pensavo che quella sia una stella già tramontata. Sì, è vero. In 3 mesi Fabrizio Barca, io lo davo premier. Vedete, uscirà l'outsider Fabrizio Barca, poi si è messo contro Napolitano. Niente, adesso no. Niente, zero. Però vi voglio regalare questa chicca. No, la facciamo dopo le informazioni sul traffico. C'è una chicca sull'IMU. Vabbè, è un'Italia, un paese che sopporta tutto, anche che Josefa Idem, scrive oggi Libero, verrà nominata oggi da Crocetta presidente onorario della Consulta Sportiva Femminile della Regione Sicilia. Ma come? Io dico anche il tempismo, ma aspetta 3 mesi, falle scontare un attimino di purgatorio, dai. Vabbè, insomma, questo scrive Libero. Ma andiamo le informazioni sul traffico, poi rientriamo. 24 mattino. Ascolta Milan, la Santanchè insultava Berlusconi, dopo magicamente la sua azienda diventa la concessionaria per la pubblicità del giornale e la Santanchè ritorna in amore con Berlusconi. Che strano che i giornalisti non ne parlino. Che strano! A parte le sue idee politiche, se tutti i politici si battessero con la forza della signora Santanchè, forse l'Italia farebbe qualche passo in più. Io dalla Merkel ci manderei lei, mi dispiace per come la pensano gli altri. Caro Milan, sono un povero vecchietto, ma la ricetta è una sola per questi deficienti e coglioni di politici. Bisogna isolarli. Kuttalax nel caffè, peperoncino nella minestra, scarafaggi sotto la porta, isolarli, è l'unico modo per toglierceli dai coglioni, questi infami. Ciao Milan, io so che non manderai mai in onda questo mio messaggio. Bisognerebbe licenziare in tonco quei 100-200 mila statali, parastatali, dirigenti, che non fanno una sega, che si fanno timbrare il cartellino da altri, e anche questi andrebbero licenziati, e al loro posto dovrebbero essere assunti dei giovani. Ah, dice, poi ci sono i giudici del lavoro che li riassumono. Eh beh, licenziamo anche quelli, eh. Porca vacassa, mondo ladron, un etto colpo di Berlusconi. In piazza un feste più nisciun, avevamo il top in ticalzon. Va bene il governo, grandi intese, ma poi sempre amare sorprese per i piccoli risparmiatori sono sempre dolori. Qui non fischia più nessuno, porca vacassa, mondo ladrone, gabbino! È tornato anche il nostro Jean Martin in segreteria, ogni tanto è del debbio, ci regala questo. È un grandissimo, lo vorrei conoscere. Vabbè, poi ti diamo il numero se vuoi. Tra l'altro c'è la tattica del no, so che non manderete mai in onda questo, ma se uno dice una cosa intelligente la mando in onda, questo è geniale. Ma a volte la cosa è sì, gente intervistata durante la mia trasmissione che dice se potessi parlare in televisione una volta. Ed è lì in televisione, che parla, sì. Sì, sì, però questa era geniale, cacciamo tutti, poi giudici del lavoro, beh, licenziamo pure quelli, grandissimo, esatto, sì. sarebbe veramente grandissimo. Allora, questo è il furbetto dell'IMU, visto che abbiamo parlato di Josefa Idem, no, nel senso, non per fare accostamenti, ma insomma. Allora, sentite questa da Repubblica, l'Agenzia delle Entrate ha scoperto che uno su quattro degli italiani fanno i furbetti, finte prime case, eccetera, stravince un avvocato di Bari al quale la finanza ha chiesto conto di una stalla, al che vanno a vedere la stalla, in realtà era la sua villa, ma che ha fatto? Ha preso delle pecore e le ha messe nel salone di casa con del pagliericcio, dicendo ho voluto creare un ambiente accogliente alle pecore. Ti prego, Italia, come fai a non affondare con gente così? Vabbè, è del debbio, questo è, cioè, col salone, le pecore che pascolavano lì. E ma ti immagini la difficoltà? Ma no, le pecore stanno bene. No, io mi immagino il povero traduttore delle intercettazioni, sì, di questa telefonata di quella di Nolfi. Ah, di quella di Nolfi. Deve scrivere che ci sono delle pecore. Di Nolfi, pecore, IMU, come si traduce? Digli qualcosa in romanesco a questo traduttore che ci sta ascoltando, dai. Non ho un'idea, insomma, però il dato che mi interessa sottolineare è che tu hai una segreteria telefonica che è bellissima, abbiamo i commenti su Twitter, i nostri rivoltosi sono i rivoltosi, diciamo, sì, così, sì, delle segreterie telefoniche e di Twitter. Poi l'Italia vera è quella lì, è quella lì. Villa con le pecore e il pagliericcio. L'Italia vera è quella che raccontava quel suo ascoltatore paradossale del cartellino timbrato dall'amico, del nulla facente della pubblica amministrazione. Purtroppo abbiamo siamo abituati a prendercela con i politici. Prima o poi ragioneremo un po' bene sugli italiani, insomma. Sì, siamo un po' cialtroni, devo dire. Questo è l'aggettivo giusto. Siamo un po' cialtroni, sì. No, ma l'avvocato che fa trovare dice: no, ma le pecore stanno in un ambiente accogliente, col cogno. È straordinario. Una si fa il whiskino, una va in cucina, si fa uno spuntino. Supera l'arte, infatti. Alla Woody Allen. Pensa del debbio, quello della Guardia di Finanza. Ma che? Le pecore qua? Vabbè, no, stanno qua. Ma Maresciallo, qui succede qualcosa. Uno guarda, ma no, questa pecora guarda Quinta Colonna tutti i giorni, accende la TV, sta tranquilla sul divano, cioè, pure le pecore vi guardano del debbio, a Bari pure le pecore accendono la TV, meglio loro di altri. No, vabbè. Ma che succede con Beppe Grillo nel debbio? Come vanno? Niente, mi sembra sparito il ragazzo. No, ma io dicevo i rapporti tra Quinta Colonna e Beppe Grillo. No, ma appunto è perché non c'è più fatto. No, i rapporti erano pessimi, nel senso che lui diceva che ci doveva venire a cercare sotto casa, insomma, disse varie cose. Poi volevamo picchiare uno dei nostri colleghi, però ora mi sembra un po' sparito, no? Mm. Non lo so. Mi sembra un po' in difficoltà. Ma è un po' in silenzio. Pare che vada, voglia andare, dicono i giornali, a fare anche una tournée. Prima in vacanza in Australia, dove ha un figlio, poi in tournée a recuperare dei, a recuperare anche un po' il rapporto col pubblico. Non so, Adinolfi è in difficoltà, viene Beppe Grillo? Negli Stati Uniti, da quello che so. Vedi, anche negli Stati Uniti, è vero. Viene negli Stati Uniti. Pare. Viene negli Stati Uniti. Fa bene, perché qui il contesto, secondo me, è abbastanza accogliente per le cose che, non solo che ha detto, ma che ha fatto. No, Grillo poi ha enormi limiti, ovviamente, che vengono evidenziati ormai sempre di più, però rimane una cosa, cioè, tra tutte le cialtronate italiane, questa è l'unica che ha fatto veramente il giro del mondo. Cioè, qui comunque di poche cose si parla, dell'Italia, è Bunga Bunga Berlusconi, è il comico che ha preso il 25%, sono i due argomenti che non ci fanno lustro eccezionale, ma insomma sono argomenti di, diciamo, di comune sentire. Comunque oggettivamente è in difficoltà, perché uno è oggettivamente in difficoltà. Beh, uno che per tanti giorni così sta zitto e avendo tutti i parlamentari sta pensando a cosa fare, oppure c'è anche difficoltà. Però, no? Però del debito, per esempio, domani restituiscono tutta la parte della diaria. Ditelo a Quinta, fate quelli superiori a dire, ecco qua, vi no, diciamo. No, ma per carità, se fanno le cose noi le diciamo. Pare domani. Noi l'avremmo invitati la prima volta, non sono mai voluti venire. Sono mai voluti venire. Sì, effettivamente hanno anche questo rapporto che, insomma, smollatevi un po', smollatevi un po'. Possiamo anche dire che non prendono i 42 milioni. Non prendono i 42 milioni del finanziamento, no? La promessa del governo di cancellare il finanziamento pubblico ai partiti è affondata in una ridicola, lunghissima serie audizioni in commissione che faranno sì che questa legge non vedrà mai la luce. In una di queste audizioni hanno detto: dobbiamo prima sentire i tesorieri di tutto il mondo per sapere come fa in Italia. Sì, anche delle isole Samoa, ma dai, ma su. Va bene, vi ringrazio Mario Adinolfi, che alle 8 sarà Radio Yes, del Debbio, conduttore di Quinta Colonna, anche oggi su Rete 4. Sì, anche oggi, sì, ci siete, sì, ci siete, come no. E allora, grazie, ci sentiamo alla prossima, è tempo di giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:15 minuti, cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali per voi e con voi. E vi ricordo anche il tema di cui parleremo oggi, parleremo di migrazione. Il Papa ha deciso di andare a Lampedusa, una scelta abbastanza improvvisa. Lunedì prossimo incontrerà i migranti, non incontrerà politici. Insomma, nei giorni in cui si parla anche di abolire il reato di clandestinità, è una proposta che ha fatto il ministro Chieng, poi un po' rientrata perché spetta al ministro Alfano, al Ministero dell'Interno. L'immigrazione, il tema dell'immigrazione torna in primo piano, ne parleremo alle 8:15, avremo diversi ospiti. E che dire, intanto andiamo a vedere che cosa ci propongono i giornali che trovate in edicola. Questo martedì 2 luglio, intanto i titoli, come sempre. Il Sole 24 Ore apre con questo dato davvero inquietante: disoccupati al 12,2%, record dal 1977. Questa è una fotografia impietosa in questo momento dell'occupazione, o meglio disoccupazione, in Italia. Poi c'è l'attualità America e Occidente, Obama, gli alleati, spiegheremo, così titola il Corriere della Sera, la vicenda delle intercettazioni. Repubblica, spie, scontro, Europa, Stati Uniti. Il caso spie infiamma l'Unione Europea, questa invece è l'apertura del Fatto, del Secolo XIX. Il Messaggero, caso spie, tensione, Europa, Stati Uniti. La Stampa, Obama, spiegheremo tutto. Questo è il titolo di apertura. Poi il Fatto Quotidiano, Ior, il Papa caccia tutti, le telefonate dello scandalo, la vicenda che ha terremotato parte dello Ior, il Giornale, tasse, tutto da rifare, la strategia economica, mentre Libero, malgrado la politica, arriva la ripresina, balzo in avanti di piccole e medie imprese. L'Unità, non c'è Italia se non c'è lavoro, è il tema della disoccupazione in primo piano, mentre l'Egitto è l'apertura di Avvenire, l'Egitto sull'orlo del golpe militare, apre il Quotidiano dei Vescovi, mentre il Manifesto all'ombra del golpe, sempre la vicenda Egitto. Voglio partire da alcune segnalazioni, la prima davvero è uno spaccato d'Italia e dico, cari italiani, quando poi criticate la casta, i politici, quelli che rubano secondo voi, leggete la pagina di Repubblica, pagina 23, per capire come in questa fotografia impietosa dell'IMU, della dichiarazione dell'IMU, siamo tutti così, come ho detto io prima alle 6.30, siamo tutti con un certo grado di cialtroneria, abbiamo il coraggio di dircelo guardandoci allo specchio. Le finte prime case, bugie catastali, ecco i furbetti dell'IMU, uno su quattro prova a evadere, uno su quattro. Questi sono dati dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, uno su quattro, cari italiani, non sono tutti politici, non siedono tutti in Parlamento questi qui. Siete voi, alcuni di voi anche che ascoltate. Giuliano Foschini, Fabio Tonacci raccontano non solo una palestra ospitata in casa, come l'ormai ex ministro Josefa Idem, ma anche una stalla nel salone per evitare di pagare quanto dovuto sulla propria villa. Il dibattito sull'IMU in Italia dovrebbe arricchirsi di un paio di nuove domande, non più soltanto quando si paga, ma anche chi la paga e quanto. E allora, dalle indagini compiute dall'Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, emerge un dato abbastanza allarmante. Un contribuente su quattro nel 2012 ha fatto il furbo. Sono circa 10 milioni di persone. C'è il caso più clamoroso che prima ho raccontato sghignazzando e perché fa ridere, lo riracconto adesso, cioè fa scompisciare dalle risate, ma dovrebbe far piangere. Il record dell'assurdo, eccolo qui, lo vince un avvocato della provincia di Bari finito in inchiesta. La finanza aveva avviato un'indagine sugli evasori dell'IMU e così ha chiesto al professionista di visitare quella che aveva accatastato come una stalla fuori città. Quando sono arrivati, i finanzieri pensavano di essere in un film di Vanzina. Per motivare la propria dichiarazione, cioè ho una stalla, l'avvocato aveva fatto trovare nel salone della villa una decina di pecore con tanto di paglia per terra che pascolavano tra il camino, i doppi infissi e un televisore, e ha fatto mettere a verbale la seguente frase: «Ho voluto creare per le pecore un ambiente accogliente». La stalla. Seppure con la palma dell'originalità, il professionista non è stato l'unico a essere scoperto. Nell'ambito della stessa operazione, scoperti 187 immobili che sono stati sequestrati, 2.874 persone denunciate, il 50% di quelle controllate. E ancora, leggiamo più avanti, il caso di Civitanova Marche, 41.000 abitanti in provincia di Macerata. Basta guardare la piantina di Google Map per contare almeno una ventina di ville con piscina. Poi uno va in comune e alla commissione bilancio in tutta la città sono segnalate solo 2 ville e 0 case signorili. In compenso al comune risultano 1.987 case popolari, cioè quelle che hanno servizi igienici in condivisione, e 387 case ultrapopolari, cioè senza servizi igienici. Ecco, se queste sono bugie, i proprietari di quelle abitazioni sono evasori. Risultato, con lo spaccato anche delle risate, ma pensate quei finanzieri che si trovano le pecore nella villa di questo che ha detto no, una stalla, e trova il pagliericcio, le pecore, una pecora magari seduta sul divano che sorseggiava un whisky, una pecora che guardava la TV col telecomando, una che sfilava e andava in cucina a prendersi una fetta di prosciutto dal frigorifero. E così, è l'Italia, siamo un po' cialtroni, senza un po', questa è la verità. Vabbè, oggi, mentre è in corso la nona settimana decisiva per l'abolizione delle province, oggi c'è questo pronunciamento della Corte Costituzionale, perché alcune province che non possono adire la Corte Costituzionale e quindi lo hanno fatto le regioni per loro. Pensate già a questa assurdità. Delle province hanno fatto un ricorso alla Corte, volevano fare un ricorso alla Corte Costituzionale contro la vecchia legge Monti per il riaccorpamento delle province. Siccome però le province per legge non possono andare dalla Corte Costituzionale, lo hanno fatto le regioni per loro. Già questo verrebbe da dire, ma come? Le regioni spesso dicono sono le province, inutili, cancellate le province, però quando si tratta di andare un man forte e a dire la Corte Costituzionale, le regioni hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale. Ben nove regioni, Piemonte, Lombardia, Veneto, Molise, Lazio, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Val d'Aosta e Sardegna. Le ultime tre sono a statuto speciale. E racconta il Fatto Quotidiano questo particolare molto interessante, anche questo uno spaccato di come va l'Italia. Sapete che c'è il Comitato dei Saggi, che tra l'altro si riuniscono ogni lunedì. Chissà cosa avranno partorito ieri, non lo so. Ci sono anche 7 scribi, un controllore e 43 quanti sono saggi. Tra le varie ipotesi del Comitato dei Saggi c'è quello di cancellare le province, sì. Ebbene, racconta il Fatto Quotidiano, pagina 11, consulta, ci sono 3 saggi a difesa delle province, cioè oggi alla Corte Costituzionale c'è questa udienza, e a difendere le regioni che hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale ci sono l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto, professore di diritto pubblico alla Sapienza. Poi difende, patrocina sia la regione Campania che la Lombardia il collega Massimo Luciani, anche lui alla Sapienza, come ordinario di diritto costituzionale, avvocato difensore della Sardegna, e Gian Domenico Falcon, esperto amministrativista di stanza all'Ateneo di Trento, prenderà le parti del Friuli Venezia Giulia. Tutti e tre, che hanno di particolarità, fanno parte del Comitato dei Saggi. Ma come? Di quel Comitato dei Saggi che ha tra le ipotesi quella di cancellare le province? Ebbene sì, raccontano Edoardo Di Blasi e Vanda Marra, pagina 11 del Fatto. I professori Caravita, Falcone e Luciani patrocinano Campania, Lombardia, Friuli, Sardegna nella causa contro il decreto che vuole cancellare gli enti. E a difendere quindi 4 delle 9 regioni ci saranno 3 autorevoli esponenti della Commissione per le riforme costituzionali, che si era data per obiettivo anche quello di abolire le province. Anche questo va in Italia, cioè quando evidentemente il lunedì, quando sono saggi, vogliono abolire le province, e il martedì, tipo oggi, quando vanno alla Corte Costituzionale, vogliono difendere le province. Vi lascio prima della pubblicità con 2 interviste a Luca Barbareschi. È stato tirato in ballo da Sergio De Gregorio come possibile senatore o ex senatore, anche lui comprato. Luca Barbareschi, sapete, ha un linguaggio un po' colorito, no? Allora fa 2 interviste al Fatto Quotidiano, ad Antonello Caporale a pagina 8 e al Corriere della Sera, Fabrizio Roncone, pagina 9. A Roncone inizia così, con Roncone: non è vero, non è vero niente, ora spiego tutto, ma non sto rilasciando un'intervista, sia chiaro, io le do la fiducia, non scriva nulla, se no poi finisce che quando la incontro le faccio fare la fine di quei cretini delle Iene, gli ha malmenati, no? Ovviamente Roncone scrive tutto, no? E dice: la prima volta che ho incontrato De Gregorio ho detto, pensai, un ciccione così volgare avrebbe potuto fare la comparsa in un film di Mario Merola, invece fa il senatore della Repubblica, va che roba. E così Barbareschi poi racconta: ho lasciato Forza Italia, ho lasciato FLI, cioè Future Libertà, non perché comprato, ma perché lasciai il partito che defini che è un cialtrone, un magliaro, punto e basta, circondato da gente tipo Bocchino, Granata, gente che adesso ha pure il coraggio di riunirsi per rimettere insieme Alleanza Nazionale. E vabbè, fa tutta l'intervista nella quale dice: e non scriva, mi raccomando, non scriva alla fine, mi giuri che non scrive niente. E Roncone, che ha finito di scrivere l'intervista: vabbè, ho capito, sa cosa significa questo? Significa che lei deve sperare di non incontrarmi mai di persona. Questo è Luca Barbareschi, mentre sul Fatto Quotidiano esordisce così con Antonello Caporale: canaglie, spargitori di merda, lordume, voi giornalisti dovreste star lontani dalle canaglie, puntare alla verità dei fatti. Com'è stato possibile che abbiate creduto a un uomo che ha venduto la sua anima, come egli dice, accusa altri senza un perché? E poi dice: io ho lasciato Future Libertà, e qui c'è un'altra versione, perché stavo andando a una riunione, per esempio a Bastia Umbra, c'era un bel po' di camorristi. Beh, questa accusa è pesantissima. In quella sala chiesi a Berlusconi, feci una verifica e lui mi confermò la vocina che mi era giunta. Da lì scelgo il ritorno all'antico amore in tutta libertà e chiarezza. E poi sia sul Corriere che sul Fatto Quotidiano dice: ma che fiction, perché l'accusa è stato comprato facendogli fare delle fiction. Io dalla politica ho perso tutto, da quando sono entrato in politica sono diventato un poveraccio, facendo politica ci ho rimesso. Per lavorare sono dovuto andarmene in Cina. Si rende conto? In Cina! Così Luca Barbareschi. Vabbè, andiamo alla pubblicità, al meteo e poi ripartiamo dalla disoccupazione, i dati economici, le fibrillazioni. Mamma mia, se c'è un termine che mi fa innervosire quasi più di divisivo, straccio il giornale appena lo leggo, qualsiasi giornale sia. Fibrillazioni, siamo lì. Oggi l'ho letto 2 o 3 volte, ho rischiato di stracciare 2 o 3 quotidiani appena presi in tonsi. Vabbè, comunque le fibrillazioni ci sono nel governo. Ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, eccoci di nuovo qui alle 7:34 minuti. Tra l'altro, chi vincerà oggi il premio La Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, lo scopriremo più avanti, alla fine della rassegna stampa, prima del giornale radio delle 8. Intanto ripartiamo dai temi economici. Il dato impietoso, che è il titolo di apertura del Sole 24 Ore oggi, e riguarda la disoccupazione, è un dato inquietante perché la disoccupazione è al massimo al 12,2%, e pensate che per trovare un livello del genere bisogna andare al 1977, dai massimi dal 1977 la disoccupazione. I dettagli poi con Claudio Tucci a pagina 3. Continuano a diminuire gli occupati a maggio, meno 27.000 unità rispetto ad aprile, addirittura meno 387.000 su base annua, sono dati dell'Istat. Il tasso di disoccupazione tocca il nuovo record, 12,2%, il valore più elevato dal 1977. Mentre quello giovanile, cioè la fascia d'età tra i 15 e i 24 anni, si attesta sempre a maggio al 38,5%, peggio di noi in Europa fanno solo la Grecia, la Spagna e il Portogallo, numeri negativi, col ministro Giovannini che dice la situazione resta molto grave, per questo serve uno sforzo in più del governo e anche delle imprese per un rilancio dell'economia. Questa è la fotografia impietosa. Certo, sotto, sulla stessa pagina, pagina 3, c'è un articolo che dà un pochino in controtendenza un po' di ottimismo, e cioè il fatto che gli ammortizzatori, quindi la cassa in deroga, si arriva presto, dovrebbe arrivare lo sblocco di 550 milioni, si va verso lo sblocco di 550 milioni di euro di rifinanziamento di cassa e mobilità in deroga per il 2013, previsti dal decreto dello scorso 17 maggio. Manca la firma del collega dell'economia, il ministro del lavoro ha firmato già il provvedimento, così ha detto il sottosegretario al lavoro Carlo Della Ringa, in attesa dei tempi tecnici per avere la disponibilità dei soldi, due ministeri potrebbero poi chiedere all'INPS di anticipare i fondi e alleviare così i disagi sui territori. Poca cosa o tante cose, non lo so, sta di fatto che il dato, quello più emblematico, è quello della disoccupazione ai massimi dal 1977. Ieri, per la verità, il ministro dell'economia Saccomanni, comparso a TG4 in un'intervista, ha dato sfoggio di abbastanza ottimismo, ripresa piena dal quarto trimestre, questo è il titolo del Sole 24 Ore a pagina 10. Dino Pesole racconta di un Saccomanni che dice: la riforma dell'IMU, se riusciamo a risolverla prima di Ferragosto sarebbero contenti tutti, io per primo. La linea è che nel menu allo studio dei tecnici ora vi è poi il riordino delle tax expenditures e degli incentivi alle imprese, eccolo qui, nel mezzo ci sono le fibrillazioni mediatiche, vabbè, fibrillazioni mediatiche le ha definite, cioè il governo è tranquillo e sereno, sono solo fibrillazioni mediatiche, dobbiamo fare i conti anche con questa terminologia davvero odiosa. Certo, c'è da dire che il Foglio in prima pagina, e con un articolo dal titolo «Uno spettro s'aggira per l'Italia da troppi anni, la spending review», Si parla sempre di revisione della spesa, revisione della spesa, anche la spending review, c'era un commissario, il commissario Bondi, nello scorso governo Monti, ma e il Foglio si chiede, ma non si era già cominciato? No, perché anche domenica, nell'intervista che Saccomanni ha rilasciato al Corriere della Sera, scrive così il Foglio: mancano soltanto un comitato interministeriale per il controllo della spesa da riconvocare, un commissario straordinario da nominare ed ecco che potrà iniziare il processo di spending review, revisione della spesa pubblica, anche per garantire coperture stabili alle decisioni prese dal governo. Così ha annunciato il ministro dell'economia sabato l'intervista al Corriere della Sera. E giustamente qualche osservatore più scettico a questo punto potrebbe chiedersi, scrive il Foglio, ma l'analisi chirurgica della spesa non l'aveva già avviata il governo Monti, succeduto tra l'altro a un esecutivo che già aveva tenuto stretti i cordoni della borsa? Spending review rischia di diventare sinonimo di rinvio dello snellimento dell'apparato pubblico? Ecco, queste sono le domande che in prima pagina il Foglio si pone, domande concrete, legittime, a dire ma come mai tutte le volte sembra che bisogna partire da zero. Marco Valerio Loprete firma questo articolo con poi un'intervista a Paolo De Ioanna, già capo di gabinetto di Carlo Azeglio Ciampi e Tommaso Padoa Schioppa al Ministero del Tesoro, che dice la risposta sua è anche un po' diplomatica, ma certo c'è qualcosa che forse gli italiani pensavano che era già stato intrapreso in termini di spending review, poi spending review, diciamo così, revisione della spesa pubblica, mettiamola ancora più brutale, tagliare qualcosa degli 800 e rotti miliardi di spesa pubblica annuale, e tutte le volte sembra che si debba ripartire da zero. Fa sfoggio di ottimismo anche, per la verità, il premier Enrico Letta, che era ieri in una visita in Medio Oriente, viene immortalato in uno dei momenti più toccanti anche dal punto di vista personale, la visita al museo di Yad Vashem a Gerusalemme per tutte le vittime della Shoah. Letta: sono stradeterminato, vado avanti, sono sincero, non sono preoccupato, quasi ogni giorno realizzo che in questi 60 giorni quella che sembrava una mission impossible sta diventando sempre più una mission possible. Questo è Enrico Letta, che fa sfoggio di ottimismo anche e nonostante le fibrillazioni di Mario Monti e Scelta Civica, che due giorni fa ha scritto su Facebook: così con i pochi passi non si va avanti. Poi, per la verità, nel giro di 24 ore Mario Monti è un po' rientrato, tornato sui suoi passi, ha detto ma no, noi siamo sosterremo l'esecutivo, ha abbassato i toni. Tra l'altro c'è la politica concentrata proprio con paginate sui giornali. Io quando ho letto pagina 8 del Corriere, un'intera pagina dedicata appunto a Scelta Civica che ora abbassa i toni, questo è il titolo di pagina 8 del Corriere con l'articolo di Marco Galluzzo, e a supporto un'intera pagina al sottosegretario ai beni culturali di Scelta Civica Ilaria Borletti Boitoni, che dice: noi siamo cuscinetto, senza di noi c'è la paralisi. Un'intera pagina dedicata alle fibrillazioni di Scelta Civica. Anche Giorgio Napolitano, il Presidente della Repubblica, dice: faccio molta fatica a prestare un volto minaccioso al professor Monti, che ritengo voglia solo giocare un ruolo di stimolo. Guardate, cari italiani, che questa è la prima Repubblica fatta e finita. E infatti dove siamo arrivati, come raccontano tutti i giornali, anche Repubblica fa una pagina su questo, giovedì la verifica di governo. Mario Monti ha chiesto proprio una specie di contratto, una specie di accordo di governo da firmare, da mettere, non si capisce bene di cosa si tratti. Giovedì, appunto, come scrive Carmelo Lo Papa, Monti e i suoi chiedono e ottengono dal premier la verifica di maggioranza. Di colpo il governo Letta si ritrova risucchiato in liturgie da pentapartito della prima Repubblica. Ma tant'è, poche ore dopo la sortista del professore che invoca un cambio di passo, pena il ritiro del sostegno di Scelta Civica, i capigruppo Lorenzo Dell'Ai e Gianluca Susta chiedono al Presidente del Consiglio un incontro sul patto di governo, una sorta di tagliando, un chiarimento che Letta, impegnato a Gerusalemme in missione, concede subito pur di disinnescare la mina. E allora giovedì, 8:30, capigruppo a rapporto a Palazzo Chigi con lo stesso Letta, il vice Alfano, il ministro per i rapporti col Parlamento Franceschini. Questo è, se vi pare, cari italiani, sono passati 60 giorni, siamo fiondati nella Prima Repubblica, io ho sempre detto che è tornata la Democrazia Cristiana, e evidentemente questo è il dato di fatto. Iena sulla Stampa, secondo me, fa l'editoriale più graffiante e più incisivo e più conciso sulla vicenda. Pagina 3. Pulci. A proposito delle minacce di Monti, la mia bisnonna avrebbe detto che anche le pulci hanno la tosse. E poi invece la politica si concentra anche con Silvio Berlusconi. Ieri 400, così sono stati stimati, non c'è il balletto, la questura dice che erano, no, 400, così il giornale, 400, 500, qualche centinaia anche sul giornale, di sostenitori di Silvio Berlusconi sono andati fuori ad Arcore. Lui invocato da Iva Zanicchi, per esempio, all'urlo di vieni, vieni, vieni, sul quale, vabbè, Repubblica ironizza anche un po', comunque era un modo per dire di farlo affacciare alla finestra. Berlusconi è stato consigliato dai suoi legali a non pronunciare alcuna parola. Infatti a un certo punto, racconta il Corriere della Sera, appare Mario Mantovani, che è il vicepresidente della regione, è uno dei rappresentanti più importanti del Popolo della Libertà, ha detto gli avvocati hanno sconsigliato a Berlusconi di dire ci sono tante udienze, ci sono tanti altri processi, e quindi hanno sconsigliato a Berlusconi di poter parlare. A quel punto c'è, insomma, un po' una rivolta, la gente che lo vuole vedere, siamo qui per Silvio. Poi a un certo punto raccontano Maurizio Giannattasio e Pierpaolo Lio, che fanno la cronaca a pagina 10 del Corriere, esce una donna che lava i vetri, pensano tutti sia al momento, poi esce al momento Paolo Berlusconi, il fratello di Silvio Berlusconi, tutti lo scambiano per un attimo per Silvio Berlusconi, delirio, ma poi si riabbassano i toni, alla fine Berlusconi riappare, dice solo grazie, infatti tutti raccontano su Libero, corteo per Berlusconi, ma lui fa il muto, dice solo grazie, quindi si attiene strettamente a quello che gli hanno consigliato i suoi legali. Berlusconi si imbavaglia anche per il giornale a pagina 3, ma il popolo azzurro è pronto per Forza Italia. E sono pronti anche per Daniela Santanchè, vicepresidente della Camera. Questo è un altro grande dibattito che c'è sui giornali, imprescindibile anche questo, è un tema che veramente è l'argomento principe, io lo so, di fronte al caffè vostro a colazione, oppure se entrate in un bar in qualsiasi città, non si parla d'altro. Daniela Santanchè ce la farà a diventare vicepresidente della Camera, oppure i franchi tiratori del PDL, oppure quelli dell'opposizione che dicono no, Daniela Santanchè la pitonessa, non possiamo farla vicepresidente della Camera. Ecco, questo è un altro tema di dibattito sui giornali, perché mi pare che oggi sia questa votazione. Santanchè vice, spacca la maggioranza al PDL, se il PD non la vota rompe i patti, pagina 12 di Repubblica. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Allora, come detto, molti giornali aprono sull'attualità internazionale, c'è lo scandalo delle intercettazioni con gli americani, che in pratica intercettavano tutti, prima eravamo in collegamento con Mario Dinolfi che si trova negli Stati Uniti, probabilmente era intercettato anche lui, anche la nostra chiamata, quindi pensa che risate ascoltare la trasmissione 24 mattino dalle 6:30 per qualcuno che l'ascolto, devo dire. No, a parte gli scherzi, la questione è molto seria, perché Obama ha detto spiegheremo tutto agli alleati, il fatto che tutti, alleati compresi, fossero stati spiati con tanti decimici vere e proprie all'interno delle ambasciate, per esempio anche l'ambasciata italiana e non solo. Beh, Emma Bonino, ministra degli esteri, oggi fa un'intervista al Corriere della Sera, pagina 3, intervistata da Paolo Conti. Tra USA, Europa e Italia c'è amicizia, ora evitare il blocco del libero scambio. Ci siamo mossi immediatamente, dice Emma Bonino, abbiamo chiesto una verifica alle controparti americane, la vicenda, lo ammetto, è molto spinosa, mi sembra evidente che siano necessari tutti i chiarimenti. Ora aspettiamo, ma siamo fiduciosi, tra Stati Uniti, Italia e Europa c'è spirito di collaborazione e amicizia. Certo, spiarsi tra alleati non è carino, ma basta leggere qualsiasi spy story per capire che se ne sono viste sempre, di tutti i colori. Poi dice Emma Bonino, certo, vedere anche la Russia così attenta nel controllare i propri cittadini, trasformarsi ora in paladina della libertà, fa sorridere. L'importante è che gli USA forniscano tutte le spiegazioni per evitare il blocco delle trattative sull'area di libero scambio tra le due sponde. Poi parla di altri temi, Turchia, Libia, in questa intervista Emma Bonino sul Corriere della Sera. C'è da dire che, come racconta Federico Fubini su Repubblica, questa storia dello spionaggio, che devo dire a me appassiona a metà, perché sì, non mi scandalizza, cioè non mi scandalizza scoprire queste cose, un po' come dice Emma Bonino, qualsiasi spy storia anche di quart'ordine fa capire che tutti spiano tutti a certi livelli o cercano di spiare tutti e fare i doppi, tripli giochi per cercare di capire e di carpire informazioni anche su quello che fa a livello commerciale, a livello economico, un nostro alleato, tra virgolette. E allora Federico Fubini sulla Stampa racconta: all'inizio nessuno a Francoforte sarà rimasto davvero sorpreso. È successo più di una volta che, per esempio, i signori della moneta, cioè quelli della Banca Centrale Europea, si siano sentiti rivolgere lo stesso consiglio dagli addetti alla sicurezza: spegnete i cellulari, estraete le batterie e mettetele via. Alla Banca Centrale Europea la percezione che qualcuno da fuori potesse ascoltare esisteva da anni e disciplinati gli economisti tecnici di politica monetaria hanno disinnescato i telefoni. Dunque, così inizia l'articolo, che poi continua a pagina 3, la sicurezza delegata agli USA, il patto inconfessabile dell'Europa. Ai vertici della BCE spesso si invitavano tutti a staccare i telefonini. Come finirà questa vicenda, come quella di grande attualità internazionale di cui si occuperà, credo, Simone Spezia, anzi non credo, Simone Spezia alle 9, vale a dire la vicenda dell'Egitto, dove si rischia davvero che sia alla fine l'esperienza già breve del presidente Morsi, dei Fratelli Musulmani e il suo governo. Dopo un anno o poco più, i militari accelerano le proteste di massa, ora si rischia davvero il golpe militare. L'ultimatum dell'esercito a Morsi: ascolta la piazza o interveniamo. Il generale al-Sisi dà 48 ore al leader islamico, quella che era il paese più popoloso e più importante, la cosiddetta primavera araba, davvero rischia di tornare sull'orlo del disastro, almeno della incertezza. Egitto, ultimatum del generale Morsi: svolta entro domani o se ne vada. Gli elicotteri già sorvolano piazza Tahrir e ovviamente c'è il rischio che la situazione possa degenerare. Comunque tutti i dettagli saranno con 9 in punto, Simone Spezia alle 9 per l'appunto. Noi parleremo invece del Papa, Lampedusa e dell'immigrazione. Sono due, per la verità, le notizie che riguardano il Vaticano. Una è il caso Ior, con il terremoto ai vertici, si dimettono i vertici, la stretta del Vaticano, come racconta nei dettagli a pagina 7 del Sole 24 Ore Carlo Marroni. E poi il viaggio a Lampedusa, il primo viaggio di Francesco a Lampedusa, gli immigrati, un viaggio inatteso, molto sorprendente per certi versi per come è arrivato, il Papa a Lampedusa, cuore sofferente del Mediterraneo. Questa è l'altra notizia che riguarda il Vaticano e ho letto il titolo di pagina 3 di Avvenire. Ma voglio andare subito alla chiusura e eccolo qui il premio La Carta Costa. Con l'articolo più inutile scovato sui giornali, oggi siamo sul Messaggero. Per la verità dovremmo dare un premio in comproprietà, perché ieri l'International Herald Tribune, cioè l'edizione internazionale del New York Times, ha fatto un articolo per dire che gli italiani gesticolano. Io sto gesticolando in questo momento. E quindi il significato dei gesti degli italiani. E oggi il Messaggero, cioè già quell'articolo bastava, ecco, per dire La Carta Costa, insomma, soprattutto al New York Times, International Herald Tribune. Oggi il Messaggero vi dedica mezza pagina a dire: l'Herald Tribune parla di noi, i romani parlano con le mani, dall'indice sul polso alle mani sul ventre, ecco il linguaggio dei gesti. Deborah Ameri, siamo a pagina 14 del Messaggero. Sono 250 i movimenti che usiamo nelle conversazioni quotidiane. Ma che vuoi, per esempio, la mano che gira in tondo per dire «E vabbè, e i gesti, il Messaggero!» Mezza pagina per dire che i romani parlano con le mani e i gesti degli italiani. Insomma, oggi stravince il premio La Carta Costa. Fate attenzione, anche perché, come scrive Gramellini in un commento di prima pagina su questo tema, ma sapete sapete perché gli italiani gesticolano con le mani, cari americani? Per non essere intercettati, no? È così ovvio. Andiamo al giornale radio, che è meglio. '24 mattino. Sono le 8:14 minuti e siamo qui, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, il Papa va a Lampedusa, lo farà settimana prossima, lunedì prossimo, è la prima volta che un pontefice va in quella che è nell'isola simbolo dell'immigrazione. Lì, infatti, per una questione geografica, come sapete, approdano molte delle persone, dei migranti che vedono in Lampedusa, in questo caso, una prima porta verso l'Italia, verso l'Europa. Lì, purtroppo, al largo di quei mari si sono consumate anche tante tragedie, e è un gesto simbolicamente molto forte. Tra l'altro il Papa, come scrivono oggi i giornali, incontrerà gli immigrati, incontrerà la comunità locale, non incontrerà politici. È uno di quei gesti a cui ci ha abituato forse Papa Francesco, no? Che in questi primi mesi di pontificato ha abituato tutti a stupire con dei gesti anche tra virgolette controcorrente. Papa Francesco andrà a gettare fiori in mare, quel mare dove appunto tante persone hanno perso la vita. Pare, racconta per esempio oggi Avvenire, che sia stato colpito proprio dai resoconti degli ultimi giorni, alcuni episodi come quello di quei migranti che sono rimasti aggrappati alle reti per pescare i tonni. Questi resoconti fatti da chi è stato portato in salvo a Lampedusa. Questo riporta al tema dell'immigrazione, insomma, avete capito, parliamo di questo. 800 24 00 24 è il numero per intervenire in diretta, e questo riporta il tema dell'immigrazione in primo piano. Ne vogliamo parlare anche per esempio sul tema rilanciato due giorni fa da Libero, che ha detto: ma come, il ministro Kyenge, la ministra Kyenge vuole ancora, ribadito, cancellare il reato di clandestinità, un reato che peraltro è stato considerato molto controverso secondo alcune sentenze della Corte Costituzionale, che in Italia c'è dal 2009, cioè è reato entrare in Italia da clandestini, anche se è un reato contravvenzionale, in altri paesi è punito addirittura già col carcere. Comunque, ne vogliamo parlare con Angela Maraventano, che saluto, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, lei, buongiorno a tutti. Lei è stata, lei è leghista, e lo è ancora leghista? Sì. Certo, per forza, sono sempre leghista. Sempre leghista, ex vice sindaco di Lampedusa, ex senatrice della Lega Lampedusana, DOC. Saluto anche l'onorevole Khalid Chaouki, che ritroviamo, del Partito Democratico. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Allora, Maraventano, intanto, vabbè, sarà felice, immagino, della visita del Papa, che è felicissima, veramente per noi è un messaggio importantissimo. Poi questo Papa veramente penso che può salvare tante cose nel nostro mondo, ecco. Senta, per esempio, no, volevo puntualizzare una cosa. Dica. Non sono immigrati, sono clandestini. Questa, mi dispiace che sono così dura, ma sono clandestini, perché dietro questa situazione c'è un traffico di carne umana, ecco. Non tutti, quindi, sono clandestini, cioè alcuni magari poi avranno diritto di chiedere l'asilo quando politico. Quando lo chiedono, io il fenomeno lo conosco bene, perché sono sempre stata sull'isola, quindi so chi ha chiesto e so chi è da clandestino, e il 90% sono clandestini. 90%. Sì. Senta, ma le chiedo questo: l'idea che una persona che vive in un paese magari più disagiato possa ambire a cercare di vivere meglio, magari ovviamente andando anche in un paese all'inizio da clandestino. Lei sa che anche il ministro Kyenge ha detto: sono entrata, credo, da clandestina in Italia. Ci sono esempi di persone che sono entrati da clandestini e poi hanno fatto tutto un percorso molto, molto tribolato, e poi magari si sono affermati. Semplicemente ambiscono a vivere meglio rispetto al luogo in cui stanno. Io dopo, siamo nel terzo millennio, io auspico per queste persone di poter vivere nella loro terra dignitosamente, e quindi io, fossi proprio il ministro Kang, andrei proprio nella mia terra a lottare per liberare quella terra. Ecco, questa per me è una dignità migliore rispetto ad fare una tratta, a rischiare di morire dietro il traffico di carne umana, venire in un'isola come Lampedusa, che è la porta d'Europa, ma lei forse non è mai venuto sull'isola, quindi è un... No, ahimè no. Ecco, e invece dovrebbe venire, intanto perché è una bellissima isola, ma questo, certo, è una per parte d'Italia che praticamente non può accogliere queste persone perché non è organizzata, perché l'Italia non è pronta per accogliere queste persone, quindi da noi manca l'acqua, mancano i trasporti, manca tutto, quindi voglio dire, non è che vengono qua e vengono a fare la vita bella o subito possiamo dare tutta la dignità e l'ospitalità, non l'abbiamo mai fatto. Però mi scusi, non vengono a Lampedusa per stare a Lampedusa. Lampedusa è geograficamente posizionata. Ma il nostro paese non è pronto a dare una dignità degna a queste persone, lo sappiamo, il fenomeno diciamo è sempre stato gestito in modo un po' così, diciamo, arrangiato, ecco, come diciamo noi. Però mi faccia capire, perché lei vorrebbe rispedire la Chieng in Congo, di fatto? Non è che la voglio rispedire, lei se è così brava, è veramente ha avuto, diciamo, tutto questo coraggio, è stata bravissima a fare quello che ha fatto, ad arrivare dove è arrivata, ma oggi, secondo me, è arrivato anche il momento di poter liberare la loro gente. Cioè, io se mi sradicano a me da Lampedusa, io muoio, io faccio politica da 15 anni con la Lega, ma al nord ci vado una o due volte, perché io capito, voglio vorrebbe la mia isola. Ma certo, ma lei vorrebbe un mondo in cui da un posto all'altro, diciamo, è un trauma, no? Oggi, ma certo, l'unica però cosa che noi possiamo fare è lottare per salvare queste persone e la loro terra. Mi scusi, quindi, Maraventano, ma lei vorrebbe un mondo in cui il tedesco sta in Germania, il finlandese in Finlandia, il congolese in Congo, il marocchino in Marocco, il lampedusano a Lampedusa, però bellissimo. E poi andare in ferie da un posto all'altro, perché è giusto così, ma soprattutto perché noi non siamo pronti ad affrontare un fenomeno del genere, non gli possiamo dare un lavoro, non gli possiamo dare nulla nella nostra terra, noi non siamo pronti, perché stiamo male noi, figuriamoci se possiamo dare le cose agli altri. Sì, però mi sembra un po' una visione un po' che va contro quello che è la globalizzazione, ma non è che avviene a Lampedusa, avviene è una cosa tutto importantissima, ma l'Italia in questo momento non è pronta, l'Europa completamente fa orecchie da mercante, cioè non riesce proprio a gestire nessuna situazione, perché intanto non ci sono persone in grado per poter gestire questa situazione. Noi a queste persone non gli possiamo dare nulla, forse li possiamo fare diventare schiavi. Ma senatrice, guardi, io questa glielo posso assicurare. Ma, mi scusi, Maraventano, ma siamo un popolo di migranti, noi italiani abbiamo costruito. Ma ormai l'abbiamo superata questa cosa, superata. Non facciamo i falsi buonisti ormai non li possiamo fare più, perché non siamo in grado. Ma lei come vive in questo momento la situazione dell'Italia? Ma certo, c'è crisi. Non ci prendiamo in giro. E quindi bisognerebbe dar lavoro solo agli italiani. Nulla, cioè, se noi portiamo avanti questo tipo di politica, non risolviamo nulla per queste persone. No, ma quella è la sua posizione. Ma gente è morta in mare. Ma certo. No, ma guardi, su questo si pagano questi poveri disgraziati per venire da noi? Questo lo so, la tratta, ma assolutamente la tratta è un qualcosa da stroncare. Questo è il suo punto di partenza, è molto molto chiaro. Allora, poi torneremo sulla questione anche Lampedusa, sulla visita del Papa. Mi faccia sentire, onorevole Sciauchi, che cosa vede di male nell'impostazione di Angela Maraventano, che da Lampedusa ad hoc dice, tra l'altro sarebbe il sogno, no, di avere ognuno viva nel proprio posto e poi si vada in giro in ferie, ma non siamo in una situazione di crisi per cui non possiamo permetterci di accollarci persone che arrivano dall'estero. Beh, è una considerazione antistorica, basta pensare ai milioni di italiani che sono a un certo punto, per condizioni di difficoltà, legittimamente hanno viaggiato in tutto il mondo, e meno male, dico io. Quindi pensare ancora oggi, nel 2013, fermare quello che è il movente di ogni persona che è trovato in stato di povertà, di guerra, o semplicemente perché, come stanno facendo tanti giovani italiani, vogliono trovare condizioni migliori per la loro vita, pensare di fermare questa ondata, che è un'ondata che fa parte della storia dell'umanità, è semplicemente folle, cioè non è ragionevole. E altra cosa, ovviamente, dire governiamo l'immigrazione, cerchiamo di offrire condizioni civili, umane, laddove ci sono, per chi ne ha diritto. Dice però sul 90% sono clandestini, sfruttati e che devono pagare anche magari i risparmi di una vita per fare un viaggio nel quale chissà poi partono, ma chissà poi se arrivano, dice Angela Maraventano. Ma il problema di questa impostazione, che è un'impostazione demagogica, perché di fatto quella norma introdotta nel pacchetto sicurezza non ha prodotto alcunché, perché non si riescono a condannare le persone a una pena pecuniaria per il loro status. Cioè qui clandestino cosa significa? Una persona che, tra l'altro solo in Italia usiamo queste strane parole, si chiamano persone irregolari o senza documenti, non clandestini. E la clandestinità apparteneva al terrorismo, alle Brigate Rosse, quindi già anche i modi con cui noi spesse volte dipingiamo queste donne, bambini, giovani, corrisponde già a un pregiudizio. E significa che sono persone che sono arrivate ovviamente in modo illegale. Si tratta di capire chi di questi ha diritto a chiedere l'asilo politico o tutela umanitaria, è un conto. Chi ovviamente è fuori da questa possibilità, il nostro paese dovrebbe dotarsi di misure, di accordi bilaterali per provvedere alle rimpatrie. Su questo siamo d'accordo. Lei sarebbe parlare così a zero. Tra l'altro a Lampedusa arrivano tantissime persone dall'Eritrea, dalla Somalia, e dopo la guerra in Libia, quindi sì, zone di guerra, certo. Però quelle hanno diritto, se ne hanno diritto, fanno richiesta di avere rifugiati, asilo politico, eccetera. Le chiedo, lei onorevole Sciauchi, sarebbe per l'abolizione, per esempio, del reato di clandestinità? È una cosa antistorica? Ma così com'è in Italia sicuramente sì, anche perché non lo dico io, ma lo dice la Corte Costituzionale, due sentenze della Corte Europea di Giustizia. E il fatto di privare della libertà una persona che non ha commesso reato in Italia, ma semplicemente perché si trova senza documenti, è un fatto grave, perché lede la Costituzione. Ma in Gran Bretagna succede, in Francia succede, in Germania succede. Non è impostato come in Italia, è impostato su base discrezionale del magistrato. Qualora ci fosse una persona che illegalmente compie dei reati, spaccia, ruba, eccetera, allora è chiaro che il giudice deve intervenire. Oppure se no si provvede per via amministrativa dell'impatto, dell'espulsione. Cioè, ma solo per il fatto stesso di mettere piede da illegale, secondo lei è un qualcosa discriminatorio di incarcerare o comunque punire una persona, affibbiarle un reato solo per il fatto che non ha i documenti, senza che abbia commesso già nulla, solo per il fatto che entra in Italia? Sì, si prevede l'espulsione, ma che senso ha intasare i nostri tribunali? È una cosa semplicemente la legge manifesto che quel governo ha voluto introdurre e che di fatto, se lei parlo con qualsiasi avvocato, giudice o si va in tasa ai tribunali. In tasa ai tribunali, e soprattutto nessuno è in grado di su pagare questo, le, su questo, Maraventano, le chiedo questo. Voi quando metteste il reato di clandestinità, non credo che voi volevate colpire tanto la persona che entra, ma volevate stroncare il fenomeno, come ci dice, della tratta. Però così andate a colpire la persona che magari non ha fatto niente nella vita, è una persona onesta, solo per il fatto di mettere piede in Italia. Infatti non lo sappiamo. Non lo conosciamo, quindi vengono a casa nostra, non è che ho capito, chi sono, ma chi se uno non lo sa, non è che può affibbiargli subito un reato nel momento in cui... La nostra legge era perfetta. La nostra legge era perfetta perché comunque appena arrivano da noi vengono identificate queste persone. Dopodiché non tutti chiedevano l'asilo politico. La maggior parte, diciamo, erano persone che arrivavano da noi clandestinamente e i documenti venivano buttati in mare. Sì. E se volete ci sono, diciamo, le prove, perché se i nostri mari sono pieni di documenti in mare. Rimandiamoli al mittente, ecco, questo sarebbe, cioè espelliamoli. Li identifichiamo, perché sì, la nostra legge era una legge che li identifichiamo, dopodiché se possono rimanere nel nostro paese rimangono, se non possono rimanere nel nostro paese li rimandiamo indietro. Cioè già non diamo la possibilità a chi traffica questa carne umana. Diciamo li abbiamo bloccati un pochino, perché i trafficanti, soprattutto ora in questo periodo che sanno che c'è una situazione diversa rispetto a quella che c'era nel 2009, arriveranno in massa quando ci sarà bel tempo, perché lì i trafficanti guadagnano e lucrano su queste persone. Cioè lei dice che adesso in Italia trovano un terreno fertile dal punto di vista politico? Fertilissimo, proprio fertilissimo. E perché? Non c'è più la Lega? Non siamo pronti perché in questo momento per affrontare una situazione del genere, perché sappiamo benissimo come vive questa gente, sia quando, diciamo, arriva sull'isola che dopo, quando va nella terraferma. Abbiamo noi centri di accoglienza intasati, vivono in condizioni terribili, e questa non è dignità per la gente dell'onorevole, io penso, cioè, perché non tutti hanno avuto la fortuna di arrivare dove sono arrivati. E questo è un massacro per queste persone. Sì, però il massacro, lei dice, facciamo in modo che vivano meglio nelle loro terre, ma lei concretamente, certo, cosa, sì, ma lei concretamente, io sono la prima, cosa farebbe per migliorare la vita dei tunisini, dei marocchini, degli egiziani? Guardi, la Tunisia è un posto bellissimo. Beh. Cioè, il problema è che loro non sono in grado di gestire, diciamo, la loro gente. Ecco, cosa manca alla Tunisia? La Tunisia non manca nulla, io ci sono andata due volte. Ma ci sarà, abbiamo ci sarà. Incontrato anche i ministri, abbiamo incontrato anche il governo. Ma lei vede che dice in realtà vede che lei dice in realtà il problema sono i tunisini, le istituzioni tunisine che non sono in grado di quindi la gente povera se ne va, la gente povera dalla Tunisia, siccome ha, secondo lei, delle istituzioni non in grado di provvedere, se ne va, cerca un mondo migliore, e cosa fa? Prende una barchina e viene da noi. Ma guardi, queste persone non prendono una barchina e vengono da noi. Queste persone che arrivano da noi, io lo ripeto fino alla fine, fino a quando mi rimane l'ultimo fiato, sì, queste persone non vengono che prendono una barchetta e vengono da noi. Queste persone vengono organizzate tramite un traffico di carne umana. Queste persone sono organizzate dai trafficanti. Sono vittime. Pagano per venire qua. Soprattutto i tunisini che non hanno bisogno di venire qua, ma c'è stato un momento particolare quando c'è stata quella sorta, diciamo, di guerriglia che c'era in Tunisia, e hanno approfittato del fenomeno della guerra in Libia per arrivare qui da noi. Sì. Cioè, noi non abbiamo solo avuto il fenomeno del 2010. Ma lei mi sta dicendo che in Tunisia si sta bene, si vive bene, chi viene qua chi è? Allora, chi viene qua sono praticamente persone che quando ci sono le guerre li possiamo anche concepire, li possiamo anche capire, sì, e allora arrivano da noi, ma sempre tramite il traffico di carne umana, ma che arrivano qua e si alzano la mattina. Sì, questo sì. Ma in questo momento, ad esempio, che non ci sono le guerre, cioè che la situazione è migliorata un pochino, quindi cosa vengono a fare da noi? Ma guardi, questo sì, ripartiamo tra un attimo. C'è da dire che io ho detto la Tunisia, ma chiaramente sono rotte che partono dal deserto, partono dal Mali, in Algeria, dal Chad, dalla Somalia, fanno carovane anche dal Centrafrica per arrivare alle coste del nord e partire. Non è che partono dalla Tunisia solo i tunisini, sono di tutte le nazionalità. Comunque il tema è interessante. 800 24 0024, il vostro parere tra poco, insieme ad Angela Maraventano, all'onorevole Khalid Shaouki del Partito Democratico, Angela Maraventano è della Lega. Ci raggiungerà anche la professoressa Lucetta Scaraffia, che è editorialista dell'Osservatore Romano, per capire anche perché il Papa ha scelto di fare questo gesto sicuramente simbolico ma molto forte, andare, è la prima volta per un pontefice, lunedì prossimo a Lampedusa. 24 mattino. E allora eccoci, le 8:36 minuti, siamo qui a parlare di immigrazione. 800 24 0024, con noi c'è Angela Maraventano, ex senatrice leghista lampedusana, c'è l'onorevole Khalid Shaouki del Partito Democratico. Ci ha raggiunto, la voglio salutare, la professoressa Lucetta Scaraffia, buongiorno. Buongiorno. Lei insegna storia contemporanea alla Sapienza, è editorialista dell'Osservatore Romano. Sono da lei tra un attimo per spiegare, insomma, il gesto anche simbolicamente molto forte di Papa Francesco, che ha scelto di andare a Lampedusa. Prima vorrei però, onorevole Shaouki, vuole replicare, insomma, la senatrice Maraventano dice, ma che vogliono? C'è un momento di crisi, c'è grave crisi che la tocchiamo tutti con mano. In Australia, per esempio, ci scrivono molti ascoltatori, provi a entrare senza un documento o senza il lavoro. Lì, anche quella è un'isola ben più grande ovviamente, ma non entri assolutamente. E perché è una posizione spesso data, definita demagogica questa, onorevole? Ma intanto vabbè, la situazione che dipinge la senatrice Maraventano è fuori, è una situazione, andare nei villaggi turistici, ma la Tunisia ha un tasso di disoccupazione talmente alto che tant'è che due anni fa abbiamo assistito a una rivoluzione, quindi un motivo ci sarà, ma non voglio dire che l'Italia deve accollarsi tutte le persone che sono bisognose. La mia priorità è intanto assicurare asilo alle persone bisognose di asilo, di rifugio politico. Noi abbiamo avuto la vergogna dei respingimenti in mare, quindi quella era la cornice filosofica dove è stato introdotto il reato di immigrazione clandestina. Quindi oggi chi entra illegalmente viene trovato, viene incluso in questi CIE e poi dovrebbe venire espulso. Quindi il problema non è prendersela con l'immigrato che si ritrova qui, che magari poi noi tranquillamente sfruttiamo. Non sempre succede purtroppo. Ma il problema è dell'Italia che ha un problema di gestione, è un problema di accordi bilaterali. Questa è la politica dell'immigrazione che va fatta nei confronti di chi è irregolare. Non è quella di prendersela con l'ultimo, con la vittima di questo circolo. Sono d'accordo che sono bande di criminali, ma non ce la dobbiamo prendere con l'immigrato che è vittima di questa situazione, che arriva. Non è vero che non sono guerre in Africa, ci sono famiglie che stanno fuggendo dal Mali, dal Darfur fino a ieri, l'Etiopia. Quindi il problema poi è anche europeo, c'è il problema di ovviamente caricare l'Europa di una responsabilità collettiva. Per farlo dobbiamo avere una credibilità, però, da questo punto di vista l'Europa se ne frega, diciamo la verità. Cioè noi siamo al sud e a loro fa comodo che arrivino da noi. Su questo assolutamente sì, ed è una cosa inaccettabile. Però devo dire anche che noi abbiamo un livello di rispetto, di tutela dei diritti di queste persone che è davvero sotto lo zero, questa è la verità, perché rispetto ad altri paesi che hanno molti più numeri di noi, l'Italia purtroppo non sempre si è manifestata all'altezza della tutela minima dei diritti umani. E questo non lo dico io di nuovo. Quindi noi prima dobbiamo comunque recuperare questa cultura, e mi fa piacere che Papa Francesco vada a Lampedusa per anche sostenere il popolo lampedusano, che a cui va dato un grande merito comunque di aver avuto grande saggezza, è stato molto altruista, generoso, ma non basta, non possiamo scaricare su una comunità, ma dobbiamo chiedere in Europa, ma anche davvero recuperare anche il senso di umanità e di dignità verso queste persone. Non so se è questo il punto, lo spunto che ha dato in là a questa visita, professoressa Scaraffia. Anche sicuramente noi siamo abituati, anche chi non segue le cose del Vaticano in maniera molto appassionata da osservatori esterni, a capire che questo Papa è un Papa che nei primi gesti ha stupito molto. Possiamo far rientrare questa visita, prima volta che un pontefice va a Lampedusa, come uno di quei gesti di Papa Francesco che sono destinati a colpire e a stupire? Sì, io lo collegherei molto al fatto che non è andato al concerto, cioè nel senso che ha deciso, diciamo, di non fare la vita un po' di corte, della corte pontificia, perché il concerto era una vita che chiamiamola di corte, perché del piccolo mondo vaticano, ma di occuparsi veramente, di dare a tutti la sensazione concreta che lui si occupa degli ultimi. Oggi gli immigrati, al di là di ogni discorso politico, sono quelli che stanno passando un inferno prima di trovare un mezzo per venire in Italia, un inferno durante il viaggio, un inferno quando arrivano. Quindi lui non si è tanto occupato di problemi politici, neanche di rispetto dei diritti umani, direi in questo caso. Anche il fatto che non abbia voluto vedere alcuna autorità. Infatti, no? Va in mare, diciamo, è il segnale di andare in mare, buttare dei fiori, sì. Come dire, sono vicino alle persone che sono l'ultimo anello di questa catena. Sì. È un gesto totalmente pastorale, che non ha nessun anche valore politico di rimprovero, di proposta, nulla. Io penso che se lui avesse potuto l'avrebbe fatto di sorpresa, senza dire niente a nessuno, quasi diciamo così, dicendolo dopo che l'aveva fatto. Addirittura a questi livelli, seppure il Papa abituato a stupire, non può muoversi ancora liberamente e andare a Lampedusa. Quello non lo può fare. Senta, però, lei dice non ci sarà nessun gesto politico, lei dice nessuna interpretazione politica. Io temo invece che qualche interpretazione politica ci sarà. È vero, è il capo di uno Stato estero, se la vogliamo mettere così, però è anche il responsabile della Chiesa. No, ma io penso che lui abbia voluto evitare qualsiasi discorso che riguarda la posizione politica europea nei confronti degli immigrati, devono arrivare, non devono arrivare, come devono essere trattati. Cioè, lui fa un gesto, diciamo così, di amore e di compartecipazione alla vita degli immigrati. Dobbiamo ricordare anche che lui è figlio di immigrati, e che questa, a me ha colpito molto questa cosa di buttare i fiori in mare dove sono morti gli immigrati, perché forse lei ricorda, io sono una storica e lo so che c'è stato un terribile naufragio di una nave di italiani che stava all'inizio del Novecento, stava dirigendosi proprio a all'America del Sud, credo proprio in Argentina, e in cui sono morti tutti gli italiani. È stato un terribile naufragio di immigrati di un grande transatlantico, e che era una carretta dei mari, però, perché i poveri immigrati non avevano i soldi per un vero transatlantico, quindi erano andati su una, diciamo, su una grande nave vecchia e malandata. Ora, lui quindi forse anche ricorda quello, cioè sì, dobbiamo ricordarsi che ce l'ha nella sua storia. Però effettivamente non incontrare politici, secondo lei, vuole proprio togliere qualsiasi simbolismo politico in questa, in questo gesto? Non sì, so, secondo me sì. Secondo lei vanno accettati, non vanno accettati, i diritti umani, non i diritti umani. Lui va al di là dei diritti umani, direi. No, è chiaro, in questo caso è molto forte il simbolo. Angela Maraventano, anche secondo lei non avrà nessuna tipologia di interpretazione politica, diciamo, il gesto di venire a Lampedusa e stare vicino a Fisi. Ma è il nostro Papa, e quindi lui capirà e sa bene quello che deve fare, capirà e lavorerà bene per tutti, quindi è giusto che ha preso questa decisione, noi siamo orgogliosi, lo accoglieremo da persone umili, non da politici, perché in questa occasione non si deve strumentalizzare, non si deve fare politica. Però lei che gli direbbe? Che gli direbbe se avesse l'occasione, se avrà l'occasione di incontrarlo? Ma io non penso, perché io sarò, diciamo, come tutti gli altri, mi metterò all'ultima fila, perché io sono sempre stata abituata a mettermi sempre all'ultima fila quando ci sono, diciamo, queste occasioni, ma se avrò l'occasione, l'opportunità, e Dio mi manderà questo segnale, io l'unica cosa che mi sento di dire al Papa è che lui avrà il coraggio di salvare il mondo, perché è una persona speciale. Io ho pregato tanto in questi giorni, da quando ho saputo che verrà sull'isola, ho pregato tanto, e non lo faccio sempre perché sono un po' sbadata, ma io capisco che Dio sa quello che deve fare. Per noi è un gesto importantissimo il fatto che lui viene, e io penso che capirà bene cosa c'è dietro tutta questa situazione e prenderà le decisioni giuste. Io l'unica cosa che mi sento di dire al Papa è: cerca di vigilare bene su questa situazione, perché c'è gente che muore quotidianamente in mare. L'unica cosa che mi sento di dire è questa. Questo sicuramente. Perché poi la politica la dobbiamo fare noi. Lui deve questo fare sì, il questo Papa. Sì. Allora, gli ascoltatori, Luigi da Bolzano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica. A lei. Volevo solo controbattere a quel signore, adesso mi sfugge il nome. L'onorevole Sciauchi, forse? Del Partito Democratico, Khalid Sciauchi, sì. Esatto, perché parla, lui ha usato il termine folle, e il folle è il comportamento dello Stato italiano, perché io sono stato emigrante in diversi paesi, ho 75 anni, quindi parliamo, però c'erano delle regole ben precise, bisognava avere permesso di soggiorno, contratto di lavoro, eccetera. Poi tutti gli immigranti che sono andati, gli italiani che sono andati all'estero, erano richiesti dall'estero, se non sbaglio. No? Quindi lei vorrebbe un principio per cui se uno viene in Italia, se serve brutalmente, esatto, serve come lavoro. Un paese piccolo e sovraffollato, pieno di problemi, non è in grado di sopportare questa invasione, diciamo. Però Luigi, che si fa se ci sono delle persone disperate, ricorderà per esempio gli albanesi che partono, disperate, partono da una situazione di difficoltà, si mettono in mare, e dove arrivano? Arrivano nel paese dove c'è il mare. Ci fosse in Svizzera al mare, arriverebbero in Svizzera. Ci fosse, che ne so, in Russia, o fosse, diciamo, fosse facile l'approdo dall'Africa alla Russia, andrebbero in Russia, no? Sono d'accordo con lei, perché l'Europa effettivamente si sta comportando molto male su questo tema, e questo ormai se ne dibatte. Dice, però lei vorrebbe delle regole un po' più precise. Va bene, grazie Luigi. Andrei a Pontida, beh, insomma, feudo della Lega, dove ci chiama, da dove ci chiama? Mohammed, leggo bene, giusto? Mohammed, buongiorno. Sì, buongiorno, sì, Mohammed. Io intervengo su tre cose veloce. La prima cosa, la terra è di Dio, e da quando è nata la terra è nata l'immigrazione, non la ferma nessuno. Seconda cosa, la Bossi Fini ha combinato solo guai in Italia. Una persona che non ha fatto nessun reato in Italia deve essere trattato bene. Uno di noi che fa reati deve mandarlo via subito, grazie al contributo che versa l'immigrazione. Noi versiamo un sacco di soldi allo Stato, ma purtroppo non c'è niente. se il figlio di Bozzi ha avuto un benvenuto in Albania con 29 laurei, perché noi non possiamo avere niente qua in Italia? Grazie. Vabbè, Mohamed, grazie. Vabbè, il figlio di Bozzi in questo caso non c'entra. Sentiamo anche Mario da Latina. Mario, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica, Mario. Io ho chiesto di intervenire perché le posizioni dei suoi due ospiti, eccezione per la giornalista dello Osservatore Romano, mi sembrano un pochino ideologiche, ovvero sono un pochino scollate dalla realtà, cioè partono da principi, seppur giusti, ma totalmente inapplicabili. Sì. Dico questo non perché sono il detentore della verità, ho lavorato, ho fatto una piccola consulenza per una cooperativa che si occupa di accogliere rifugiati politici e richiedenti asilo. Beh, tra quelli che sono arrivati durante la primavera araba nell'estate del 2011, mm-hmm, e parliamo di 200 persone all'interno di quella cooperativa, forse nemmeno il 10% aveva diritto all'asilo politico. Beh, un paese serio dice il 10% ha diritto, quelli che hanno diritto, gli altri li mandiamo dietro se non hanno. Gli altri si mettono o in condizione di tornare indietro, oppure si analizza bene la loro storia e si capisce cosa fare. Il problema è che c'è un business che gira intorno a queste persone. Cioè, ogni immigrato vale all'interno di queste cooperative qualche decina di euro al giorno. Mm. Capisci? Sì, è un business. Quindi è interesse anche di qualcuno lasciarli qui. Il business. Quindi, Mario, purtroppo lei, insomma, certifica che attorno ai soldi, non so, professoressa Scarafia, che attorno ai soldi poi gira... Gira tutto, non so se su questo ha un parere, purtroppo c'è tanta ideologia, lei la vede, nell'approccio di questo tema, che è un tema storicamente importante, perché appunto la migrazione, le migrazioni sono lunghe come la notte dei tempi. Vede troppa ideologia nella politica italiana? Ma io penso di sì, e ce n'è tantissima anche proprio intorno agli immigrati. Penso che però sia un problema politico da affrontare, per esempio la cittadinanza agli immigrati. Io penso che dovrebbe essere data a quelli che, soprattutto i figli degli immigrati che frequentano le scuole italiane, parlano italiano, sono ragazzi italiani a tutti gli effetti. Ci sono molti problemi da risolvere che non vengono risolti. C'è, per quanto riguarda gli arrivi degli immigrati, non siamo solo noi responsabili. I responsabili sono intanto i paesi da cui partono e che accettano quella terribile malavita che gira intorno appunto a chi fa il trasbordo degli immigrati, derubandoli e portandoli spesso alla morte. E poi dell'Europa, che se ne frega dell'Italia, questo è vero. Cioè, il fatto che l'Italia deve sopportare il peso di un arrivo che poi riguarda tutta Europa, perché poi moltissimi di questi immigrati in realtà vanno negli altri paesi europei. Sì, certo, vedono l'Italia come una terra di passaggio, per andare a ricongiungersi magari. In questo momento non siamo molto allettanti. No, effettivamente no, magari puntano più alla Germania che all'Italia. Sì. Maraventano, lei lo Ius Soli come lo vede, come il fumo negli occhi, no? Cioè, la voglio proprio provocare. No, guardi, io accetto benissimo le provocazioni, io è da 20 anni che... No, ma è una domanda in realtà. Seguo, ed è dall'86, non è che si scherza, sì. E li seguo quotidianamente, conosco tutta la situazione, conosco gli sbarchi, chi meglio di me. Io dico, tutte queste persone che parlano non sono mai state in prima linea, non hanno mai fatto nulla, non hanno mai salvato bambini, non hanno mai messo, diciamo, io ho accolto 35 bambine fino alle 4 di notte e non sapevamo dove portarle a dormire perché noi non abbiamo le strutture adeguate, quindi queste persone non sanno di che cosa io sto parlando. Però quelle sono le vittime, quello almeno siamo d'accordo. Quelle lì. Che cosa le sto dicendo, ma io infatti per questa situazione all'inferno non ci vado, perché lotto questo fenomeno, forse per altre situazioni, ma per questa no. Quindi io, quando parlano queste persone, io le vorrei qua con me in prima linea quando c'è l'emergenza seria, capito qual è il discorso? Quindi sono tutte parole un po' così al vento, ecco. Io dico soltanto, questo è un problema serio che noi dobbiamo risolvere al più presto possibile. Sì, però mi scusi, Maraventano. No, mi scusi, però. Risolvere il problema di questi poveri. Però Maraventano, mi scusi, proprio perché lei è lì in prima linea, quando lei accoglie queste persone, quando arrivano queste persone, lei prova una rabbia nei confronti degli scafisti, delle persone che li ha messi, di coloro che lucrano. Ho prima queste persone. Certo, però la sensazione è che poi uno che con chi se la prende? Con quelli che sono arrivati lì, perché gli scafisti poi scappano. Non abbiamo mai fatto questo tipo di politica, non è vero, Lampedusa ha sempre accolto tutti, noi abbiamo semplicemente cercato di fare delle leggi ad hoc per non fare per partire queste persone. L'Italia ha dato milioni di euro per il contrasto a questa situazione, abbiamo dato delle motovedette, abbiamo dato tutto quello che abbiamo potuto dare. L'Italia ha fatto di tutto negli ultimi anni per contrastare questo fenomeno e purtroppo c'è una parte di politica del nostro paese che vuole strumentalizzare delle idee che non stanno né in cielo né in terra, perché queste persone non sono mai state qui in prima linea a vivere questo fenomeno. Noi dobbiamo contrastare i trafficanti, noi dobbiamo cercare, e su questo siamo tutti d'accordo, esatto, cioè non ci sono altre cose da fare, non ci sono strumentalizzazioni politiche. Sì, però se uno noi dà, che ne so, il problema al monte, non lo possiamo risolvere a Lampedusa, non lo può risolvere l'Italia. E questo l'Italia. Certamente, però se noi, diamo, che ne so, soldi, pescherecci, motovedette per cercare di controllare quelli che partono, e quelli dall'altra parte, per dire, quelli in generale, se li prendono, se li tengono, si prendono i soldi, si intascano i soldi e continuano a lucrare sugli scafisti, effettivamente è un problema di difficile soluzione. Io mi devo fermare qui, ringrazio tutti, Angela Maraventano, l'onorevole Khalid Shawki del Partito Democratico, la professoressa Lucetta Scaraffia. Tutto è riascoltabile come sempre sul sito di Radio 24, radio24.it. Potete seguirci su Facebook 24 Mattino, potete seguirci su Twitter, io sono Alino Milan, c'è anche il profilo 24 Mattino, e quindi potete scriverci anche una mail 24mattino@radio24.it. il 24 a numero, mi raccomando, ho detto proprio tutto, che dire, vi diamo appuntamento domani. Saluto anche Valeria De Rosa, redazione, che mi saluta dall'altra parte del vetro, così. E allora diamo l'appuntamento a domani alle 6:30 del mattino. Noi siamo qui e voi? 24 Mattino.